Make sure you're sitting in a comfortable position. Assicuratevi di stare seduti in una posizione comoda. If you're not comfortable sitting on the floor, please take a seat on a chair. It's perfectly okay. Se non siete comodi, seduti per terra, per favore sedetevi pure su una sedia, perché va benissimo lo stesso. That's no, you sure? Yeah. If your posture is not comfortable, then at the beginning, then you know it'll just cause you pain. Se la vostra posizione non è, la vostra postura non è comoda sin dall'inizio, beh, vi potrà creare poi dei dolori. So just drawing our attention now to the just beginning there at the top of the head. Quindi cominciamo a portare l'attenzione alla sommità del capo. And just bring your attention down your face. Poi portate l'attenzione giù lungo il viso. Eyes gently closed. Gli occhi socchiusi o chiusi in maniera delicata. The jaw relaxed. La mandibola rilassata. Lips together, teeth apart. Le labbra unite, ma i denti separati. Shoulders. Le spalle. Hands are usually most comfortable. Just on your lap. Solito, le mani sono più comode nel grembo. Palms facing upwards. Con le palmi verso l'alto. What matters is to feel comfortable. Cosa importante è sentirsi comodi. And keep lifting up through the top of the head. Continuate a sollevare il corpo dalla sommità del capo. If during the meditation the body slumps, keep lifting it up. Se sentite che durante la meditazione il corpo si incurva, continuate a riportarlo dritto. So here we have an energized spine. Quindi abbiamo una spina dorsale energizzata. And everything else relaxed. E tutto il resto rilassato. The body here is mirroring the type of awareness we want to develop. Il corpo qui è come se rispecchiasse il tipo di consapevolezza che stiamo cercando di sviluppare. Alert and yet relaxed. Sveglia, ma allo stesso tempo rilassata. Bringing the attention to the breath wherever you feel it most. Portiamo l'attenzione al respiro, laddove lo sentiamo di più. In the Mahasi tradition, it is preferable to observe the breath in the body, not at the nose. Nella tradizione Mahasi si suggerisce, è preferibile, percepire il respiro nel corpo, non sotto le narici. If you're already established at the nostrils, that's fine. Però se già siete abituati e avete stabilizzato la vostra attenzione alle narici, va bene così. Placing, resting the attention gently on the breath. Quindi appoggiate, ponete delicatamente l'attenzione sul respiro. Feel the sensations. Quindi sentite le sensazioni, percepitele. And as the abdomen or the stomach or chest rises, A little noting word is helpful to keep the mind, to keep the attention steady. Quindi man mano che si solleva l'addome o lo stomaco o il petto, può essere utile un'etichetta mentale, proprio per tenere ferma l'attenzione. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. If you're watching the breath and nostrils, in, out, out. Se invece osservate il respiro alle narici, potete usare la parola dentro e fuori. If the mind is wandering, let go of the words, the thinking, and the imagining. Se la mente divaga, lasciate andare le parole, o il pensiero, o l'immaginazione. But note the attitude which is driving it. Ma notate però l'atteggiamento che in qualche modo la spinge verso questa divagazione. Worrying, planning. Preoccupazione, o pianificare. The first note is to recognize, the second note to really acknowledge it. La prima nota mentale è per notarlo, accorgersene, la seconda è per riconoscerlo veramente. And then draw the attention back to the breath. Poi riportate l'attenzione nuovamente al respiro. And make a determination to stay there. E prendetevi l'impegno di stare lì. If the mind is wandering, really recognize and acknowledge the attitude that is driving the mind. Se la mente sta divagando, cercate davvero di riconoscere l'atteggiamento che spinge la mente in quella direzione. And draw the attention back to the breath gently. Riportate delicatamente l'attenzione di nuovo al respiro. Determined to stay there. Prendete l'impegno di stare lì. Siate determinati nel voler stare lì. If you're feeling dull-minded or tired, se sentite che la mente è un po' offuscata o vi sentite stanchi, lift the spine. Sollevatevi o raddrizzate la spina dorsale. If it gets worse, open the eyes, let the light in. Se invece peggiora, aprite gli occhi, fate entrare la luce. And if it gets even worse, stand up. Se invece peggiora ancora, alzatevi in piedi. And draw the attention to the breath. E riportate l'attenzione al respiro. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. If the mind is wandering, recognize, acknowledge what it's doing, the attitude driving it, draw the attention back to the breath. Se la mente divaga, prestate attenzione a quello che sta facendo, l'atteggiamento che sta dietro, l'energia che spinge la mente verso la divagazione, poi delicatamente riportate l'attenzione al respiro. Determined to stay there. E impegnatevi a stare lì. Feeling sleepy, tired, lift the spine, open the eyes, stand up. Vi sentite stanchi, aprite gli occhi, o sollevate la spina dorsale, o alzatevi in piedi. Perhaps now you feel just a little more centered, a bit more calm. Adesso forse vi sentite un po' più centrati, un po' più calmi. See if you can draw yourself closer to the breath. Vedete se riuscite a avvicinarvi un po' di più al respiro. To catch the very beginning of the in-breath, to stay with it to the very end. The very beginning of the out-breath, stay with it to the very end. Vedete se riuscite a cogliere proprio l'attimo in cui inizia l'inspirazione e restare fino alla fine. O se riuscite a cogliere l'attimo in cui inizia la espirazione e seguirla fino alla fine. Beginning, and endings. Gli inizi e le fini e la fine. Each breath is similar, but not the same. Ciascun respiro è simile a un altro, ma non è uguale. Each breath arises and passes away completely. Ciascun respiro sorge e passa completamente. The body breathes. It doesn't need us to control it. Il corpo respira, non ha bisogno di noi che lo controlliamo. And yet we are aware of it. E tuttavia noi ne siamo consapevoli. Can we become aware of the separation between the observer, the feeler, on what is being observed and felt? Riusciamo a essere consapevoli della distinzione tra l'osservatore o colui che sente e ciò che viene osservato o sentito? So now, from now on, whenever the mind wanders, just recognize, acknowledge the attitude driving it. Quindi d'ora in poi, ogni volta che ci accorgiamo che la mente divaga, notiamo questo atteggiamento, quello che la sta spingendo. And just bring the attention back to the breath and start again. E riportiamo l'attenzione al respiro e ricominciamo da capo. Feelings of tiredness and dullness, keep making the effort. Se abbiamo sensazione di stanchezza o di intorpidimento mentale, continuiamo a mettere un po' di sforzo. So now we can open up and observe and feel whatever draws the attention within the field of awareness. Quindi adesso possiamo aprirci e notare qualsiasi cosa che attira la nostra attenzione in questo campo della consapevolezza. If there's a sound, we note hearing, hearing. Se c'è un suono, allora notiamo udire, udire. If it's the sound of a bird, we're not interested in the bird, but the process of hearing. Se è il suono di un canto di un uccello, non siamo interessati all'uccello, ma al processo dell'udire. If it's a sensation in the body or a feeling in the body from an emotion, se è una sensazione fisica nel corpo oppure una sensazione legata a un'emozione, pleasant or unpleasant, che sia piacevole o spiacevole, if it draws the attention, we go there. Se attira la nostra attenzione, noi andiamo lì. We're not looking for anything. Ma non stiamo cercando qualcosa. And when we get there, we feel it intimately. Quando arriviamo lì, noi la sentiamo in maniera intima. And see if you can find a little word which expresses the feeling, describes the feeling. Vedete se riuscite a trovare una piccola parola che possa esprimere o descrivere questa sensazione. Remember, when the mind wanders, just begin again. E ricordatevi che quando la mente divaga, ricominciate da capo. The breath is our anchor, our reference point. Il respiro è la nostra ancora, il nostro punto di riferimento. Rising, falling. Alzarsi, abbassarsi. Can you see how everything we're experiencing is arising and passing away? Riuscite a vedere come qualunque cosa che, di cui facciate esperienza sorge e passa. It passes away completely. Passa completamente. Nothing remains. Non c'è nulla che rimanga. Nothing is reliable. Non c'è nulla di affidabile. Can we become aware of how we are reacting to what we are experiencing? Riusciamo a diventare consapevoli di come stiamo reagendo a ciò di cui facciamo esperienza. How when something is unpleasant, we want to get rid of it, push it away, ignore it. Come quando sperimentiamo qualcosa di spiacevole, noi lo vogliamo allontanare, rifiutare o liberarcene. Can we instead feel the reaction and do nothing? Riusciamo a sentire piuttosto la nostra reazione e non fare nulla. When something is pleasant, we want to develop it. Quando c'è qualcosa di piacevole, lo vogliamo sviluppare. We want to indulge it. Vogliamo indulgere a esso. Can we feel that desire and do nothing? Riusciamo a sentire questo desiderio e non fare nulla. can we become aware of how the mind just offers thoughts and images? Possiamo essere consapevoli di come la mente spesso ci offre dei pensieri, delle immagini. How the heart offers its moods and emotions. Come il cuore ci offre le sue emozioni, i suoi stati d'animo. And how the body its sensations, feelings. E come il corpo ci offre le sue sensazioni, percezioni. None of it under our control. E nulla di tutto ciò è sotto il nostro controllo. We're just observing, feeling, experiencing intimately. Noi stiamo semplicemente osservando, stiamo sperimentando, vedendo le cose in maniera intima. If I'm not controlling something, it's not me. Se io non sto controllando qualcosa, allora non sono io. What I'm experiencing is not me. Quello che io sto sperimentando, che sto provando, non sono io. Putting aside all instruction, just watch, feel, experience intimately whatever draws the attention within the field of awareness. Mettendo da parte le istruzioni, cerchiamo di osservare, di sperimentare in maniera intima qualunque cosa che attiri la nostra attenzione nel campo della consapevolezza. when we come to the end of a sitting, it's important to reflect a little. Quando si giunge alla fine di una seduta, è importante riflettere per un attimo. This is some way that you can do it. Questo è un modo in cui potete farlo. How diligent were we, how committed were we at bringing ourselves back to the present moment? Quanto siamo stati diligenti o quanto ci siamo impegnati a riportarci al momento presente? Or were we lazy? Oppure siamo stati pigri? If we thought we did well, we should congratulate ourselves. Se pensiamo di aver fatto bene, allora dovremmo congratularci. If we think we've been a little lazy, we should encourage ourselves to be more diligent. Se invece pensiamo di essere stati un po' pigri, dovremmo incoraggiarci a essere più diligenti. How did we deal with the various physical and mental states that arose? Come abbiamo gestito tutti gli stati difficili fisici e mentali che sono sorti? Were we skillful or unskillful? Did we know what to do? Siamo stati abili o non così abili, così bravi a fare ciò che abbiamo fatto? If we were skillful, congratulate ourselves. Se siamo stati bravi, abili, allora congratuliamoci. If we could have been more skillful, we encourage ourselves. Se invece avremmo potuto essere più abili, allora ci incoraggeremo. If we didn't know what to do, we must ask the teacher. Se non abbiamo saputo cosa fare, allora forse dobbiamo chiedere all'insegnante. Which of the three characteristics of existence was most obvious to us? Quale delle tre caratteristiche dell'esistenza ci è stata più evidente, più ovvia? Was it how everything we're experiencing is arising and passing away? È stato il notare come tutto ciò che sperimentiamo sorge e passa? Or was it how we're constantly reacting to everything? Wanting and not wanting. O piuttosto abbiamo notato come continuamente reagiamo a tutto, volendo le cose o rifiutandole. Or was it that sense of no control and what I'm experiencing as an object, not me? Oppure piuttosto è stato quel senso del non essere in controllo, o di sperimentare un oggetto come se non fosse io o mio, non fosse mio. And it's good to make a determination. Ebbene, esprimere un proposito. It could be a general determination to give our to give our full commitment to the practice of moment-to-moment mindfulness. Può essere un proposito generale in cui ci impegniamo a dare tutta la nostra attenzione a sviluppare la consapevolezza attimo dopo attimo. Or it could be specific. Poi potrebbe essere più specifico. As soon as I feel tired, I shall stand up. Tipo, appena mi sentirò stanco, mi alzerò in piedi. So now we're going to practice metta bhavana, developing goodwill. Adesso faremo la pratica di metta bhavana, cioè lo sviluppo della benevolenza. Feel free to change your posture and feel comfortable.